È stato presentato proprio ieri sera il progetto a propria misura qui a Bologna in Sala Borsa e io sono qui per parlarne con Valeria Cavallone, studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Ciao Valeria, buongiorno. Rachele, buongiorno. Allora, intanto Valeria, ti chiedo di raccontarci un po' questo progetto dal titolo a propria misura, che vede coinvolti diverse realtà come appunto l'Accademia di Belle Arti, la redazione di Piazza Grande e anche Amelin. Sì, praticamente il progetto nasce da un po' dall'esigenza di ragionare su, appunto, proprio sul portico come dimensione spaziale e quindi sì, la collaborazione tra Amelin e Piazza Grande puntava proprio a ragionare su questo spazio non per fare fumetto di inchiesta, quindi cioè, era proprio per ragionare su una dimensione che fosse anche narrativa, perché poi alla fine il portico che viviamo tutti i giorni è un po' è come se fosse un centro di storie che si intrecciano di continuo e creano delle situazioni anche molte volte surreali o generatrici di storie e di riflessioni continue. E quindi sì, la volontà era quella di riunire delle persone che provenissero da realtà differenti, tant'è che appunto il progetto è stato realizzato anche con degli operatori di Piazza Grande e un'ex senza dimora. E quindi sì, c'è stato un momento iniziale del workshop che è stato realizzato tra l'altro nella Fondazione Rusconi, che è una realtà anche molto interessante perché praticamente si occupa di realizzare progetti. Questo spazio che era un ex, se non sbaglio, officina, un ex ciclo officina. Quindi questa cosa di ridestinare spazi dismessi per la realizzazione di attività artistiche fondamentalmente. Quindi anche qui c'è un riragionamento sullo spazio e sull'utilizzo dello spazio. E quindi siamo riuniti in questo spazio con Miguel Valdivia, che è un fumettista, un illustratore. Nelle prime due giornate abbiamo ragionato molto proprio sullo spazio del portico e su cosa è per noi la dimensione del portico, su come la viviamo quotidianamente, perché poi ha anche questa, diciamo, conformazione molto particolare, perché è un interno ma è un esterno. È uno spazio che invita alla sosta, ma anche uno spazio di passaggio. È uno spazio che tutti noi viviamo quotidianamente, o perché viviamo proprio con delle case che affacciano nel portico, oppure perché c'è gente che vive sotto al portico, studenti che attraversano il portico per andare all'università, per andare al lavoro, eccetera. E quindi sono venute fuori tante storie, tanti punti di vista sul portico. E poi in un secondo momento abbiamo iniziato appunto a ragionare su queste storie, ne siamo confrontati e le abbiamo messe su carta, tra l'altro facendo un'operazione anche molto folle di realizzazione in soli 5 giorni, perché poi il workshop durava una settimana, ma di fatto era da un lunedì a un venerdì, quindi in 5 giorni abbiamo parlato tanto, disegnato tanto e ci siamo confrontati tanto su questo argomento, tant'è che inizialmente il progetto era destinato alla rivista di Piazza Grande, però poi le storie sono diventate tante e anche molto belle, quindi poi è venuto fuori un vero e proprio libro a fumetti, che tra l'altro è anche acquistabile, si può prendere sia al mercato di Piazza Grande che alla Leonardo. Invece Leonardo si parte da un'offerta libera di 5 euro e quindi sarebbe il bello anche se appunto questo libro poi venisse letto da chiunque, perché poi è anche appunto un bel libro fondamentalmente. Tra l'altro l'avete fatto anche diventare una mostra che avete presentato proprio ieri. Sì, la mostra è partita ieri negli spazi di Sala Borsa, che tra l'altro è anche partner supporter di questo progetto. Si durerà fino al 30 gennaio e lì si trovano esposte tutte le tavole originali del progetto, quindi è anche bello perché si può vedere proprio il lavoro su carta che è stato fatto in quei giorni senza post edizione. Poi magari sì, sotto ci sono i libri che si possono sfogliare anche, quindi per chi è curioso può anche dare un'occhiata al volume senza impegno d'acquisto, diciamo. Però sì, tra l'altro è bello anche vedere come anche le storie di chi non proveniva proprio da questo, dall'accademia banalmente, comunque dal contesto artistico, si inseriscono molto bene invece all'interno di tutto il lavoro che è stato fatto, quindi devo dire anche un bel risultato a livello di omogeneità del lavoro, diciamo. Certo, un lavoro sinergico che ha messo insieme anche persone che probabilmente non si sarebbero mai incontrate altrimenti. Esatto. E forse è proprio anche questo il bello di progetti del genere. Sì, e poi appunto come dicevo prima sulla questione del ragionare sullo spazio, credo che la parte più bella di questo volume sia proprio il fatto che le storie sono tutte molto diverse tra loro, ma si incastrano alla perfezione, perché appunto è come il portico è stato visto veramente da qualsiasi punto di vista possibile, tant'è che c'è anche una storia con un piccione protagonista che attraversa il portico, quindi abbiamo un ulteriore punto di vista molto molto estraneo dal nostro. Ci sono storie molto surreali, storie più che prendono come riferimento episodi realmente accaduti, personaggi realmente che esistono realmente, realmente esistiti, e quindi sì, è un bel modo per riguardare al portico, diciamo. Bene Valeria, io ti ringrazio veramente per averci presentato e raccontato questo progetto a propria misura e niente, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, arrivederci.